Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1. Come dimenticare quei momenti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la telecronaca fa parte del primo gol di una memorabile tripletta del grande, grandissimo Paolo Rossi nella partita contro il Brasile nei mondiali del 1982 che portò l'Italia alla vittoria. Un Paolo Rossi che ci ha lasciato prematuramente a 64 anni e che è stato un indimenticabile protagonista di quella partita, ma di quegli anni. E anche Mattarella oggi l'ha ricordato più che come calciatore, ancora più che come calciatore, come uomo. Ha detto: ricordo il suo garbo, la sua gentilezza, il suo sorriso, ed effettivamente è stato anche un grande uomo. Paolo Rossi lo ricorderemo in questa puntata di Effetto Notte, un ricordo di un grandissimo altro campione del calcio italiano, che è Dino Zoff. E poi parleremo ovviamente anche del raggiunto accordo al vertice europeo sui recovery fund e sulla Next Generation EU con il Presidente del Consiglio Conte, che ha detto adesso avanti tutta. Molti altri argomenti, torneremo anche sul caso Regeni, sembra che ci sia finalmente una svolta giudiziaria, ma capiremo più nel dettaglio. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che lì per voi giorno e notte, oppure i WhatsApp, potete inviarli sempre al 349-238-6666, 349-238-6666. Prima di addentrarci nei vari temi, sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 16.999 i nuovi casi positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione Civile, e le vittime sono 887. Intanto il governo apre uno spiraglio sugli spostamenti tra comuni a Natale e si valutano deroghe per il 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Il Covid nel mondo: negli Stati Uniti oltre 3.000 morti e 220.000 casi di Covid in 24 ore. In Germania 20.000 le vittime, a Stoccolma ospedali in tilt. Vertice europeo, accordo sul recovery e il Next Generation EU, il Presidente del Consiglio Conte dice avanti tutta, e per la Brexit la Commissione europea presenta il piano in caso di no deal. Femminicidi: la sentenza di ieri con la quale è stato assolto l'omicida perché in preda a delirio di gelosia continua a suscitare polemiche e proteste. Il caso Regeni: 4007 egiziani verso il processo in Italia. Addio a Paolo Rossi, cordoglio non solo in Italia per il simbolo di Spagna 82, a Effetto Notte ricordo di Dino Zoff. Partiamo quindi come sempre dall'evoluzione del coronavirus in Italia. Sono 16.999 i nuovi casi positivi al tampone nelle ultime 24 ore, le vittime, avete sentito, sono 887, e intanto il governo riflette sulla possibilità di concedere qualche deroga al divieto di spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno. La decisione del governo sarebbe già stata presa, la riflessione ora sarebbe solo sulla veste giuridica, un nuovo provvedimento o una modifica al decreto già in Parlamento. Si va dunque verso la deroga al divieto di spostamento tra comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno, restrizione che andava a penalizzare i piccoli paesi rispetto alle grandi città, una decisione che il Premier Conte avrebbe maturato per venire incontro alle richieste di numerosi sindaci e governatori e alle pressioni del centrodestra, ma anche di pezzi della maggioranza, tra cui Italia Viva, da sempre contraria al divieto. Ricredersi è un segno di saggezza, commenta infatti il ministro Teresa Bellanova. E intanto sul fronte dei dati: sono 16.999 i positivi su oltre 171.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ma il dato più rilevante è il rapporto positivi tamponi, che torna a scendere al 9,9%, un punto meno di ieri. Sono oltre 30.000 guariti e dimessi, che portano il totale da inizio pandemia a oltre 1 milione. Calano le terapie intensive, ma in deciso aumento le vittime, 887 contro le 499 di ieri. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E saranno quasi 6 milioni e mezzo le persone che riceveranno in Italia in modo prioritario il vaccino anti-Covid. La stima è contenuta nel piano strategico vaccinale. Il governo cerca intanto 16.000 unità di personale sanitario per le vaccinazioni nei prossimi mesi, pescando anche tra medici e infermieri già in servizio, neurolaureati e pensionati. Sarà pubblicato entro sabato il bando del commissario Arcuri per reclutare circa 3.000 medici e 13.000 infermieri per il piano vaccini anti-Covid, con incarichi a termine a partire da gennaio e per un massimo di 12 mesi. Nella fase più intensa delle vaccinazioni saranno coinvolti anche medici di famiglia, pediatri, personale sanitario delle forze dell'ordine e farmacie. Le difficoltà maggiori saranno a trovare infermieri, già oggi molto pochi in Italia, meno di 6 ogni 1000 abitanti contro i 10 della Francia e 13 in Germania. La presidente dell'Ordine degli Infermieri, Barbara Mangiacavalli. I neolaureati sono già stati assorbiti tutti nel mercato del lavoro, così come gente non occupata. La chiamata della protezione civile, come è successo anche nei mesi precedenti, in genere fa affidamento su persone che sono già in servizio. C'è anche il rischio che, come dire, si copre da una parte e si scopre dall'altra. Mi sento di proporre, come presidente della federazione, di insistere soprattutto sui liberi professionisti. Ce ne sono 60.000 sul territorio italiano. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Questo per quanto riguarda l'Italia. Invece il Covid-19 nel mondo, dal 15 dicembre, data in cui si riaprirà parzialmente il paese, i francesi potranno tornare a circolare liberamente senza autocertificazione, eccetto nelle ore di coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino. Allora sentiamo cosa sta succedendo nel resto del mondo. La pandemia non si spegne e oggi l'allarme viene dalla Svezia, uno dei pochi paesi a non avere mai imposto il lockdown. In particolare a Stoccolma sono attualmente occupati il 99% dei letti in terapia intensiva. Ad annunciarlo il direttore sanitario regionale Bjorn Eriksson, il quale ha anche rivolto un appello agli svedesi ad evitare assembramenti nei negozi per lo shopping natalizio e nei locali per l'aperitivo. Dopo l'accorato appello di Angela Merkel al Bundestag, anche la Germania registra un altro record di casi, oltre 23.600 secondo il Robert Koch Institute, mentre i nuovi decessi sono stati 440. Nell'ultima settimana la situazione è peggiorata, i sanitari sono esausti e aumentano i pazienti nelle terapie intensive, oltre ai focolai nelle case di cura per anziani. Intanto, mentre negli Stati Uniti si contano più di 3.000 morti in 24 ore, un aumento atteso dopo che milioni di americani hanno viaggiato per il giorno del ringraziamento, nonostante gli appelli a stare a casa, primo caso confermato di reinfezione da Covid-19 in Brasile. Una dottoressa di 37 anni si è infettata con due ceppi differenti del virus, la prima volta nel giugno scorso e la seconda in ottobre. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora dalla Cina, una serie di prove sul coronavirus trovate in Italia prima di dicembre 2019, tra cui l'ultimo di un bambino di 4 anni contagiato a novembre, ne abbiamo parlato ieri, ha portato alcuni esperti in Cina a indicare che nel paese si è verificato un focolaio di Covid-19, cioè in Italia, dicono, prima che a Wuhan, dove il primo caso ufficiale è dell'8 dicembre. Lo scrive il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, l'organo del Partito Comunista Cinese, in un articolo pubblicato questa sera sul suo sito web titolato "L'Italia ha potenzialmente avuto un'epidemia di Covid-19 prima di Wuhan". Nel secondo paragrafo il Global Times precisa che tuttavia questo non indica l'Italia come l'origine del virus, poiché determinare la fonte è un lavoro complicato e difficile che richiede una grande quantità di indagini e studi. Non si sa se un tentativo di rigirare la frittata da parte della Cina, ma insomma. Passiamo al vertice europeo. I leader europei hanno raggiunto l'accordo su Recovery Fund e Next Generation EU, lo rende noto il presidente del Consiglio europeo Michel. Il segretario di PD Nicola Zingaretti apre all'opposizione e dice: avremo di fronte tra qualche giorno una proposta su Recovery Fund, non un pacchetto conchiuso in se stesso. E poi appunto il presidente del Consiglio Conte che dice: adesso dobbiamo correre. E allora approfondiremo naturalmente questa parte parlando di quello che succede in Europa per quanto riguarda appunto questi fondi che arriveranno, ma anche per la Brexit, perché sembra che il primo ministro britannico Johnson non ne voglia sapere di un accordo. E poi invece per quanto riguarda l'Europa, le previsioni economiche, allora la BCE, Banca Centrale Europea, ha peggiorato la sua stima sulla crescita nell'Eurozona per il 2021 a più 3,9% da più 5% precedente, a fronte di un quarto trimestre con una nuova significativa contrazione. Per questo il consiglio direttivo della BCE ha ribadito il suo impegno ad adeguare i suoi strumenti ove opportuno per assicurare che l'inflazione si avvicini al livello perseguito. Torniamo sul tema dei femminicidi. La sentenza di ieri con la quale è stato assolto l'omicida di Brescia perché in preda a delirio di gelosia continua a suscitare polemiche e proteste. Di questo parleremo con la presidente della commissione parlamentare sul femminicidio, Valeria Valente. Notizia che arriva dall'India: alcune decine di monache buddiste nepalesi, note come suore Kung Fu, vivono da alcune settimane in isolamento in un villaggio himalayano a 4.000 metri nel distretto indiano di Laul, dove tutti gli abitanti colpiti da Covid-19 non erano più in grado di procurarsi cibo perché privi di lavoro da mesi. Il sito online del quotidiano The Hindustan Times racconta la più recente impresa delle famose suore. Dall'inizio della pandemia alcune centinaia di loro hanno abbandonato l'allenamento da guerriere volanti per correre appunto in aiuto di queste persone. Il coraggio di queste monache non stupisce, perché l'impegno sociale abbinato allo studio e alla pratica dell'arte marziale è una delle caratteristiche del loro ordine, che appartiene al lignaggio Drukpa. Già nel 2018 le suore Kung Fu hanno ricevuto a New York il premio Game Changer Award dell'Asia Society, riconoscimento annuale che onora gruppi e individui che hanno un impatto di trasformazione in Asia. E siamo al caso Regeni. La Procura di Roma chiude l'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. I PM hanno emesso avvisi di chiusura indagini che precedono la richiesta di processo per 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. E ci sarà modo nel corso di questa puntata di avere altri dettagli. La Corte d'Appello di Milano ha confermato le condanne a 9 anni di carcere per l'ex giocatore del Milan Robinho al secolo Robson de Souza Santos e per un suo amico Riccardo Falco per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all'epoca nel 2013 aveva 23 anni. Di recente il Santos, squadra brasiliana dove Robinho era tornato a giocare per chiudere la carriera, lo ha messo fuori rosa perché in Brasile nei mesi scorsi si è tornato a parlare del processo milanese e sono state pubblicate intercettazioni dell'inchiesta sulla violenza che hanno scatenato reazioni e polemiche. Rubinho nel 2013 giocava per il Milan e appunto la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 9 anni. Invece tutt'altro personaggio di grandezza non solo calcistica, sportiva, ma anche umana. Paolo Rossi, l'eroe non solo del Mondiale dell'82, ma di una stagione irripetibile per il calcio italiano. Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Pablito lo era diventato già 4 anni prima, nel 78, in Argentina, ma in quell'estate del 1982 che Paolo Rossi diventa mito. Del resto la sua storia era l'emblema di un paese intero. Fisico gracile, ginocchia fragili, ma istinto del gol ineguagliabile, inghiottito suo malgrado dallo scandalo scommesse del 1980, ma atteso da Bearzot come un figlio, oltre il limite dell'umano amore e pazienza. E lui, Pablito, al vecchio che regalo gli fa? Tripletta col Brasile, 2 gol in semifinale alla Polonia, la rete che apre il 3-1 alla Germania Ovest nella finale del Bernabeu, col presidente Pertini che fa festa in tribuna e l'Italia in ogni piazza e strada. E per Rossi, capocannoniere, pure il pallone d'oro. Tutto questo forse per la perseveranza, senza forse, soprattutto per la perseveranza, la testardaggine di Bearzot, senza di lui davvero non ci sarei arrivato a vincere un mondiale. Un padre Bearzot per Paolo, tanto che insieme usciranno di scena in azzurro nel deludente mondiale di Messico 86. Se col Vicenza invece era arrivata la prima fama e col Milan gli ultimi gol, è con la Juventus che Rossi vincerà di fatto tutto, ma anche il trofeo più desiderato e amaro, la Coppa Campioni, nella tragica notte dell'Aisel. Poi l'attività di commentatore TV, 1000 interessi, la passione per l'enologia e il vino. Ciao Paolo, campione di tutti in quella magica estate mundial. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su Paolo Rossi poi torneremo appunto dovremo raggiungere a un certo punto della puntata Dino Zoff, non perdetelo. Tra poco naturalmente comincio gli approfondimenti con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, che è come sempre, lo sapete, il numero per i WhatsApp. Già per esempio questa ascoltatrice Silvia, fra i vari messaggi, dice: ma come si fa ad assolvere un uxoricida? Perché in preda a un delirio di gelosia? Dice: io sono arrabbiata da morire. Insomma, ci sono state molte proteste da parte dei movimenti delle donne, ma non solo, giustamente anche molti uomini si sono infuriati per questa cosa. Oggi i giudici di questa sentenza hanno dato in una nota le loro spiegazioni, ma insomma poi ne parleremo con la presidente della commissione d'inchiesta sui femminicidi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E qui in questi 60 minuti le trovate tutte le notizie che dovete sapere a fine giornata, in modo che un giorno non dovrete dire io questa non la sapevo. Roberta Giordano naturalmente ad accompagnarvi e a raccontarvi le notizie, approfondirle con gli ospiti. Partiamo adesso, mentre poi appunto vi dicevo ci sarà un ricordo di Paolo Rossi con Dino Zoff, parleremo anche di una svolta, pare una svolta nel caso Regeni, ma prima di tutto della svolta invece in seno all'Unione Europea con il nostro Sergio Nava, che saluto, caro Sergio. Ciao Roberta, e questa la sappiamo, eh? Questa la sappiamo? La sappiamo questa svolta? Sì, riprendo bravo. Il tuo refren. Bravo, bravo, questo la sappiamo, perché adesso questa in particolare ce la racconta Sergio Nava, cioè che oggi in questo vertice europeo, questa due giorni di vertice europeo, oggi è stato il primo giorno, mi pare che si siano comunque raggiunti dei risultati abbastanza ragguardevoli rispetto magari alle previsioni, no Sergio? Perché vedevo il Presidente del Consiglio Conte che ha twittato appena raggiunto in Consiglio, cioè un po' di tempo fa, forse una retta fa, abbiamo raggiunto il Consiglio Europeo l'accordo definitivo sul Next Generation EU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia, 209 miliardi, approvato anche il bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa, dobbiamo solo correre. Sergio, qui si galoppa? Sì, diciamo allora, ci sono due fronti qui. Il primo è il fronte europeo, è stato sminato sostanzialmente già ieri dalla presidenza di turno tedesca, già ieri sera era abbastanza evidente, diciamolo pure, che Ungheria e Polonia avrebbero ceduto in cambio di una vittoria anche un po' più che simbolica, ecco, questo ci tengo a dirlo. L'Europa un po' di arretramento l'ho fatto, se vuoi poi lo possiamo anche rapidamente spiegare. E poi c'è il fronte chiaramente italiano, sì, sono 209 miliardi, bisogna presentare di fondi europei che arriverebbero con il Recovery Fund, più tutta la parte ovviamente del bilancio settennale, perché la potenza di fuoco sdoganata oggi è di 1.800 miliardi complessivi su un arco di circa 7 anni. Il bilancio settennale va oltre il Recovery Fund, non dimentichiamolo, che si ferma diciamo intorno al 2023 come effetti. Il piano italiano è quello un po' più problematico, perché qui c'è tutta la questione nazionale della cabina di regia, di chi lo gestirà, di chi lo coordinerà, di chi prenderà le decisioni, e Bruxelles ha già fatto capire nelle scorse settimane che comincia ad essere un po' impaziente, anche perché l'Italia è a tutti gli effetti il paese simbolo di questo Recovery Fund per gettito che riceverà, certo, la maggior somma. E Sergio, tra l'altro, tu dicevi appunto di come verrà gestiti poi questi soldi in Italia, no? A livello di governo sappiamo che c'è questa polemica, perché Conte avrebbe pensato a una, diciamo, tra virgolette struttura piramidale con il Presidente del Consiglio all'apice, poi sotto il Ministro dell'Economia e dello Sviluppo Economico, e poi una serie di esperti, no? nella parte più bassa, che secondo le opposizioni, ma anche alcune parti della maggioranza, in questo modo escluderebbero il Parlamento, no, dal prendere decisioni in questo senso. Comunque questa è una polemica appunto tutta italiana. Sì, diciamo, allora, sostanzialmente l'Europa non ti dice come devi fare, certo. Ti dà delle linee guida, ti dice come devono essere spesi i soldi, c'è un vincolo legato anche alla parte, diciamo, più green, che se ricordo bene è del 30% di spesa. Stendiamo un velo pietoso sulla sanità, perché lì c'erano ben 37 miliardi di prestiti a tasso negativo del MES, e alla fine saltano fuori a quanto pare circa 9 miliardi. E ci sarebbe stato tanto da investire nella nostra sanità. Su questo il governo ha fatto veramente un grosso errore, anche se Speranza, ho visto poco fa il ministro della salute, ha detto porterò in CDM la richiesta di aumentare questi fondi, speriamo, perché effettivamente insomma per ora sì, da 9 sono miliardi, da 9 miliardi a 37 miliardi ce ne passa un po', Roberta, speriamo comunque sì. Riesca viste anche le defiance clamorose della medicina territoriale in questa pandemia, come speriamo sappiamo. Veramente che si riesca a fare qualcosa di meglio, se mai ci sarà una prossima volta. Premesso questo, chiaramente l'Europa non ci dice come dobbiamo fare, ci dice quali obiettivi dobbiamo perseguire. Vorrei tornare brevemente con te sulla questione Polonia e Ungheria, perché anche per spiegare agli ascoltatori, probabilmente saranno rimasti un po' esterrefatti di fronte a questo incartamento polacco-ungherese che ha tenuto occupate le ultime settimane. L'Europa sostanzialmente non ha fatto concessioni a Polonia e Ungheria. Il meccanismo sullo Stato di diritto resta. Il problema è che lo si è andato molto a ingolfare. Io sono anche un po' scettico di fronte a tutte queste dichiarazioni di urrà che arrivano anche dal Parlamento europeo. Capisco che ovviamente siamo riusciti, l'Europa è riuscita a sbloccare un pacchetto molto grosso, il pacchetto simbolo di questa lotta, di questa speranza di ripresa anche dopo la crisi anche economica post pandemica, però si è andati a ingolfare tutto il processo che dovrebbe portare a una punizione di quei paesi. Polonia e Ungheria sono i principali candidati in questo momento in caso di violazione dello Stato di diritto, che soprattutto in Ungheria è stato molto grave. Parlo di attacco alla magistratura, attacco alla stampa indipendente. Tutto questo lo si va molto a ingolfare, perché si tira in ballo la Corte di Giustizia europea, si dà al paese la possibilità di portare la sua protesta in caso di insomma possibile punizione al Consiglio europeo. Insomma, si rischia di fondamentalmente tirare molto per le lunghe, e i soldi intanto a questi paesi che usano buona parte dei fondi europei per incrementare il PIL, che hanno costruito anche un successo economico con i fondi europei, si dà loro la possibilità di continuare a non rispettare lo Stato di diritto per mesi, forse anni, e intanto ricevere soldi europei. Non la considero una vittoria totale, ecco. Chiaro. A proposito di vittorie non totali, anzi per nulla al momento, Sergio, altro argomento molto importante di questo vertice europeo è il possibile accordo con la Gran Bretagna per la Brexit, per l'uscita definitiva, no, della Gran Bretagna all'Unione Europea. Però mi sembra che Johnson non fosse molto ben intenzionato, il primo ministro britannico, e che la Presidente della Commissione Europea von der Leyen abbia detto a un certo punto: vabbè, qua ci vuole, presentiamo il nostro piano B del no deal, cioè della mancanza di accordo. Qual è la scadenza, tra l'altro, per trovare questo accordo, Sergio? Ma io ormai lo chiamo il penultimatum, perché abbiamo visto talmente tanti ultimatum negli ultimi mesi che non me la sento più, Roberto, di chiamarlo ultimatum. Chiamiamolo penultimatum, ecco. Sarebbe entro domenica. Così non sbagliamo mai. Anche perché hanno già detto che sì, entro domenica bisogna prendere una decisione, ma non una decisione se si esce con o senza accordo, cioè se il divorzio finirà con o senza accordo, ma eventualmente su cosa puoi fare, ecco, quindi... Allora, Johnson stasera è stato molto cupo, ma anche questo fa parte delle trattative, dicendo che vede sempre più probabile un'uscita con termini australiani dall'Unione Europea, quindi senza accordo, perché l'Australia non ha accordi commerciali con l'Unione Europea, certo. Così diciamo ben regolamentati. Tu accennavi giustamente a quello che si chiama contingency plan, cioè insomma ai piani di contingenza. Nel caso di una uscita senza accordo il 1 gennaio, manca veramente poco, sono anche un po' dovuti e sono soprattutto molto scarni. L'Europa ha presentato delle disposizioni transitorie, non definitive, transitorie, che dovrebbero dunque bastare per le prime settimane per evitare che il trasporto aereo, trasporto su strada e pesca restino praticamente senza nessun tipo di regolamentazione, e si rischia di bloccare così i collegamenti aerei tra Londra e Milano, Londra e Parigi, oppure anche la stessa traversata della Manica, ecco. Però lo si fa sempre sperando che alla fine un accordo si trovi. Certo che veramente fa impressione vedere che ancora una volta ci si è ridotti all'ultimo momento, e a differenza dell'accordo di divorzio si è veramente arrivati a un passo dalla scadenza, che è il 31 dicembre, a notte tra 31 dicembre e 1 gennaio. Quindi succede a quel punto? Cosa succede? Beh, in caso di un'uscita senza accordo, a parte appunto queste diciamo tecnicismi basilari per evitare di interrompere i voli, interrompere i trasporti su strada, però scattano dazi e tariffe, e quindi le merci europee verso la Gran Bretagna, le merci britanniche verso l'Europa vedranno incrementi di prezzo, chiaramente, e aspettiamoci anche nei primi giorni di gennaio, se ci fosse un'uscita senza intesa, un vero e proprio disastro nel nord della Francia e nel sud dell'Inghilterra per possibili, probabili code di tir che, viste le nuove formalità doganali, si incolonneranno perché tutto sarà molto più complicato a quel punto per poter passare la manica. Certo. E ci mancano E complicazioni in quindi genere, diciamo, in questo periodo. Comunque, vabbè, sì, vedremo, esatto. vedremo che cosa succede. Mancano in effetti abbastanza poco tempo. Grazie Sergio Nava su questi ragguagli sul Grazie a voi. vertice europeo. Vedo che un'ascoltatrice o ascoltatore chiede un'informazione su un ospite che ho avuto ieri molto molto interessante. Ha avuto infatti, diciamo, più richieste da questo punto di vista. Dice: potete per favore ricordarmi chi ha parlato della ricerca su endometriosi e microplastiche ieri? È stato qui Effetto Notte il professor Antonio Ragusa, che ha fatto questa scoperta appunto di microplastiche nella placenta umana. Per la prima volta al mondo è stata riscontrata questa cosa, è stato fatto questo studio, e ha parlato anche del fatto, diceva ieri il professor Ragusa, che in molti casi di endometriosi nelle donne negli ultimi anni potrebbero essere dovuti proprio alla presenza di microplastiche che entrano poi nel nostro organismo, diceva, sia per via respiratoria che per via alimentare. Professor Ragusa del Fate Bene Fratelli di Roma. Ci sentiamo tra pochissimo con molti altri. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, le più importanti dall'Italia dell'estero, raccontate da me Roberta Giordano e approfondite con gli ospiti, come sempre, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Notizie in primo piano, poi appunto molto importanti. Per una volta oggi non parleremo di coronavirus in particolare, anche se nella sintesi della giornata naturalmente vi ho dato conto di tutte le notizie nuove di oggi. Abbiamo parlato però, per quanto riguarda l'Europa, dei fondi che dovrebbero arrivare in Italia per cercare di sollevare un po' il nostro paese dalla crisi proprio generata dal coronavirus. Però ci sono anche molte altre cose estremamente inquietanti, come per esempio la sentenza di cui vi parlavo ieri rispetto a un femminicidio, una sentenza che avevo detto, ho evitato di commentare più di tanto, ma avevo detto che ovviamente e naturalmente avrebbe fatto discutere. La sentenza è quella della Corte d'Assise di Brescia, che ha assolto dall'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione Antonio Gozzini, docente in pensione di 80 anni, che un anno fa, all'inizio di ottobre, in un appartamento della zona nord di Brescia, ha ucciso sua moglie Cristina Maioli, di 62 anni, insegnante di scuola superiore, prima tramortendola mentre dormiva con dei colpi di martello e poi accoltellandola alla gola, quindi in modo naturalmente molto delicato. Quando ha confessato l'omicidio, l'uomo ha detto: non c'era un motivo particolare per cui ho deciso di uccidere mia moglie, so solo che stavo malissimo, in depressione, possono succedere queste cose. Intanto diciamo che se tutti i depressi e le depresse di questo mondo dovessero uccidere i compagni o qualcuno accanto, diciamo, ci sarebbe una strage mondiale. Comunque l'anziano era convinto di essere stato tradito, cosa mai verificata, un vero e proprio delirio di gelosia, hanno scritto nella sentenza i giudici. Quella di Brescia è una sentenza appunto destinata a far discutere, ha fatto discutere ieri, fa discutere oggi. Stamattina c'era un gruppo di donne che protestava davanti al tribunale di Brescia. E poi ne hanno parlato molto anche diversi esponenti politici, ho visto in particolare il Partito Democratico. Comunque, quella di Brescia appunto è la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, che dice: per i giudici è stata una soverchiante tempesta, anzi questo è, mette in relazione, praticamente ci fa ricordare quello della sentenza di Bologna, Corte d'Appello di Bologna, che aveva ridotto la pena un femminicida, Michele Castaldo, da 30 anni a 16 anni, perché l'aveva definita la sua una soverchiante tempesta emotiva passionale, anche se poi per fortuna in Cassazione, se non sbaglio, poi la condanna era stata di nuovo aumentata. Promette di approfondire queste decisioni dei giudici bresciani la presidente della commissione sul femminicidio, commissione parlamentare, la senatrice PD Valeria Valente, che sono contenta di avere in collegamento. Buonasera. Salve, buonasera a voi. Senta, senatrice, allora si dice che le sentenze non si commentano, però insomma non è l'ultima, diciamo, non è la sola in Italia questa sentenza che decisamente fa indignare. Poi i giudici oggi hanno detto in una nota, hanno motivato la loro decisione dicendo che il delirio da gelosia è una patologia, non ha a che fare con il movente. Ma intanto aspettiamo ovviamente, come sempre, di leggere anche le motivazioni di questa sentenza, però sicuramente a una prima lettura almeno del dispositivo e della decisione finale ci sentiamo sicuramente, massimo rispetto per l'operato della magistratura, non ci sogniamo di commentare la sentenza, però una cosa ci sentiamo assolutamente di dirla, che approfondiremo questa vicenda che ci sembra vada davvero oltre l'immaginabile, perché sostanzialmente ci riporta in un clima, in un quadro che ricorda tanto la giustificazione del delitto d'onore. Io lo dico con franchezza, il punto non è ritenere una persona incapace di intendere e di volere, ci può stare, insomma è una cosa sicuramente possibile, ma pensare che la gelosia possa determinare questa incapacità di intendere e di volere, ecco, questo sicuramente ci lascia più che una perplessità, che noi quindi ci impegniamo ad approfondire e a capire, perché sinceramente pensiamo che, questo non lo dico solo relativamente a questa sentenza, ma tante pronunce che purtroppo ci lasciano diverse dubbi interpretativi, e di come le norme che pure il quadro italiano ha, cioè che l'Italia, di cui l'Italia si è dotata, vengono sostanzialmente applicate. Il tema resta per noi la specializzazione dei magistrati e soprattutto dei consulenti, perché anche in questo caso credo che tutto, se ho letto bene, insomma, ho provato un po' a ricostruire da voi, insomma, dall'operato vostro della stampa e dei quotidiani, e abbiamo capito che sostanzialmente molto è dipeso da una perizia fatta peraltro per il PM su un mandato, diciamo, del PM, che però poi ha deciso di non avvalersi di questa consulenza e che invece è stata sostanzialmente richiamata dal giudice in una, diciamo, percorso processuale che desta più di una perplessità, perché in questi casi solitamente il giudice prova almeno anche in contraddittorio a fare una perizia, a chiedere una perizia, quindi diciamo ci lascia veramente più di una perplessità tutta, diciamo, la procedura processuale, quindi proveremo ad approfondire il caso. Certo è che vedere un soggetto prosciolto per incapacità di intendere e di volere dettate da ragioni legate alla gelosia crea un precedente, secondo noi, molto pericoloso, molto pericoloso, e che apre, diciamo, un capitolo che noi invece vorremmo vedere chiuso, e cioè che la violenza contro le maschile, contro le donne, non può essere mai, ripeto, mai e poi mai giustificata da ragioni di gelosia, perché lei ha detto non è stata mai provato che la donna ha tradito l'uomo. Io le aggiungo però che anche qualora fosse provato, certo, nulla potrebbe giustificare un gesto di questa portata. Tra l'altro, senatrice Valente, anche il magistrato Fabio Roia del Tribunale di Milano, che spesso è intervenuto con Effetto Notte, e ha avuto nel 2018 l'Ambrogino d'Oro dalla città di Milano per il suo impegno nel contrasto alla violenza contro le donne, ha detto che a sua volta, certo, cercherà di capire le motivazioni, di leggere quando arriveranno, che però una sentenza dice che desta perplessità. La sua collega di partito, Laura Boldrini, giustamente lei citava prima il delitto d'onore, no? Che addirittura in Italia, se non sbaglio, è stato abolito nel 1981. Quindi, non si sbaglia. Prima? Esattamente così. Quindi, diciamo, non mi sbaglio, appunto. Non si sbaglia, esattamente, ecco, così. Ricordiamo quindi che il delitto d'onore significava che se un uomo avesse anche il minimo sospetto, diventava una scusa che la donna l'avesse tradito, alla fine, insomma, la condanna era piuttosto lieve perché era giustificato, no? Del fatto di averla fatta fuori perché l'aveva punita giustamente. Sostanzialmente una causa di giustificazione del comportamento. Quindi, ecco, quindi ti dico, riporta esattamente lì. E pensare che da quegli anni ad oggi noi abbiamo fatto tantissimi passi in avanti dal punto di vista dell'impianto normativo, conquiste significative anche sulla pelle delle donne, su battaglie importanti, spazi di libertà, di autonomia, di diritti riconosciuti dalle donne, così sembra davvero, a pronunce di questo genere ci fanno ripiombare indietro di decenni, e in termini di cultura ci fanno ritornare a quegli anni. E di civiltà. Evidenziano che tutto sommato le norme da sole sono sempre necessarie ma mai sufficienti, ci vuole un cambio di passo che è fatto però di cultura, di abbattimento di stereotipi e pregiudizi, di letture stereotipate del rapporto tra gli uomini e le donne. Io vorrei ricordare che in un momento drammatico come quello che viviamo dovremmo forse guardare, approfittare anche per guardare, no, alle dinamiche relazioni uomo-donna, il ruolo della donna in una società veramente con altri occhi, e ricordare che il progresso, il grado di civiltà di un paese è tanto raccontato anche dal grado di libertà, di autonomia, di indipendenza delle donne, che forse fare passi indietro in questo momento veramente scoraggia tanto, proprio in un momento nel quale noi dovremmo invece guardare avanti provando a ricostruire anche modelli di crescita, di sviluppo, di convivenza sociale, civile e democratica. E così ha risposto in modo esemplare, senatrice Valente, anche un ascoltatore, per fortuna in minoranza, ancora qualcuno ogni tanto spunta fuori che dice: ma secondo lei rende meno grave l'omicidio quando non è un femminicidio? Ancora alcuni non hanno capito nulla, che è un fenomeno che riguarda l'Italia e tutto il mondo ed è sempre unidirezionale. Uomini che uccidono le donne perché dicono per gelosia, perché lei se ne voleva andare, è sempre lo stesso schema, lo stesso copione. Semplicemente prima... un uomo che si sente proprietario, certo, di quella libertà, che pensa di poter disporre di quella libertà e di quell'autonomia in nome di un rapporto sovraordinato, gerarchico, di potere e di proprietà che l'uomo sente di poter ancora esercitare nei confronti della donna, al di là delle conquiste formali garantite dalla Carta Costituzionale e dalle leggi. Certo. Purtroppo la verità è altra. E ogni tanto chiedo agli ascoltatori e alle ascoltatrici cosa succederebbe se succedesse se fosse il contrario, se ogni poco, ogni 2 o 3 giorni una donna uccidesse il proprio compagno perché è gelosa o perché la vuole lasciare. Citavo prima la sua collega Boldrini proprio perché aveva detto: per fermare il femminicidio le leggi non bastano, bisogna proprio cambiare la mentalità degli uomini, ed è quello che ha detto lei in modo esemplare. Grazie senatrice Valeria Valente. Grazie e buon lavoro, voi. Davvero. Grazie, contiamo su di lei. Grazie. Grazie. Viabilità. A tra... Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Che momenti esaltanti, care ascoltatrici e cari ascoltatori, in quella partita ai mondiali del 1982 contro il Brasile in Spagna. Esaltanti per chi li ha vissuti, per chi se li ricorda e soprattutto per chi ne è stato protagonista, rendendosi indimenticabile. Chi se non il grande, grandissimo Paolo Rossi, che se n'è andato in silenzio a 64 anni dopo una lunga malattia. Rossi, che è stato capocannoniere in quel mondiale, è stato premiato col pallone d'oro con la Juventus di Trapattoni, ha vinto 2 scudetti, 4 coppe, ma Paolo Rossi bisogna dire che è stato ed è così amato non esclusivamente per essere stato un grande campione di calcio, ma anche per l'umanità non comune, soprattutto specie in certi ambiti e certi livelli, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica oggi, Mattarella, ha ricordato dicendo: ricordo il suo garbo e l'umanità dell'indimenticabile protagonista dell'Italia del 1982. E c'è anche l'omaggio del Brasile che lui ha battuto. In un giornale c'è scritto: se n'è andato colui che ha infranto il sogno di un'intera generazione, quella dei nati dal 1965 al 1975, che hanno pianto lacrime copiose. E gli rendono omaggio con le parole di Roberto Falcao, che per tutti ha detto: hai fatto piangere il Brasile nell'82, ora il Brasile piange per te. Poco fa ho visto anche l'omaggio del Real Madrid, naturalmente lo piangono gli amici, i suoi ex compagni di squadra. Però io voglio chiedere un ricordo di Paolo Rossi. Allora, se Paolo Rossi, almeno per me, che ero bambina, ragazzina, è il calciatore per antonomasia è portiere Dino Zoff, che saluto. Dino, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. A Dino Zoff io mi voglio permettere di dare del tu, perché ai miti, ai grandi miti popolari, quelli che hai sul poster nella tua stanzetta quando sei bambino, ci parli da sola, insomma, non gli dai del lei quando gli parli, fai del tu. Dino, mi permetti di darti del tu? Sì, sì, sì. Grazie. Dino, allora regalaci, tu che sei stato... che sei ex calciatore, allenatore, dirigente sportivo, campione del mondo nel 1982 e capitano di quella nazionale condotta da Berzot, ci regali un'istantanea del tuo Paolo Rossi? Beh, Paolo Rossi era completo nella vita e sul campo. È un ragazzo splendido, sotto tutti gli aspetti, meglio. Ironico, si prendeva in giro, c'era un piacere stare con lui, ecco, su questo, poi sempre con i dovuti toni, senza mai andare oltre in nessun momento, ecco. Quindi direi, sotto questo aspetto, veramente era un piacere passare del tempo con lui. Sotto l'aspetto calcistico era veramente un'ira di Dio lì davanti, ma non un'ira di Dio per la potenza atletica, ma bensì per la rapidità, per l'anticipo delle posizioni da trovare, da prendere, per usufruire di qualsiasi decisione della difesa. Quindi direi, insomma, ha dato un contributo di gol notevolissimo. nazionale già nel 78 ha fatto ottime cose, poi è arrivato nell'82 con qualche problema iniziale, però poi dopo ci ha permesso di portare a casa la Coppa del Mondo. Insomma, quindi rimane davvero, dice qualcuno, anche qualche ascoltatore, che erano gli ultimi momenti romantici del calcio, gli ultimi protagonisti romantici di quel calcio di una volta, è vero secondo te, Dino? Ma sai, i tempi cambiano, quindi non è che una volta eravamo più romantici, migliori di oggi, i tempi cambiano, i comportamenti anche, quindi direi che insomma, il calcio è sempre bello, se vogliamo, ecco, fatto con dei canoni di sport che molte volte si dimentica, diventa più spettacolo, però diciamo che insomma comunque è un bel vedere il calcio. Era un bel vedere. E dispiace non trovare dei rossi, di tanti rossi in campo, ecco. Già, un nome comune, molto comune il suo, ma lui non una persona comune, oltre che un calciatore comune, Dino. No, non era comune, ovvero era molto comune, e forse questo, perché era comune nella sua bravura, nel suo estro, nella sua capacità di essere un grande giocatore, ecco, questo è molto importante. E lo vogliamo ricordare così. Grazie infinite, Dino Zoff, grazie anche per quello che tu sei e che ci hai regalato. Grazie. Va bene, grazie a voi. Un abbraccio. Grazie, Dino. Finiamola con la retorica della madre e il dolore della madre. Le madri, come i padri, sono cittadini e quindi hanno il diritto di rivendicare verità e giustizia per i loro figli. L'ha detto con forza oggi la madre di Giulio Regeni, a quasi 5 anni dalla terribile morte del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto. Forse c'è una svolta giudiziaria con l'atto di conclusione delle indagini da parte della Procura di Roma, che manda a processo in Italia 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Voglio chiedere a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, se davvero è una svolta. Buonasera Nuri. Buonasera, sì, è una svolta, nel senso che immagino che nel 2021 presto ci sarà un processo in Italia e sarà l'Egitto a scegliere se gli imputati saranno presenti o in contumacia. Questo non inficerà la regolarità del procedimento. E immagino che dovrà uscirne una sentenza di condanna per 4 funzionari dello Stato egiziano responsabili del sequestro e poi della successiva sparizione, della tortura e dell'omicidio di Giulio. Sarà un colpo alla reputazione dell'Egitto, perché sarà il paese che sarà conosciuto al mondo come quello che ha coperto, magari anche promosso e nascosto la giustizia italiana dei responsabili di crimini di diritto internazionale. Tra l'altro, Nuri, nell'atto di chiusura delle indagini, i PM parlano di servizi durate giorni, questo purtroppo lo sapevamo, che causarono a Giulio acute sofferenze fisiche messe in atto anche attraverso oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni. Quindi davvero deve aver subito delle cose atroci. Giulio è inimmaginabile. Sì. Inimmaginabile, e questo ogni volta acuisce il dolore delle persone care a Giulio, dei genitori in primo luogo, ma questa è la tortura in Egitto. Quando i genitori di Giulio dicono Giulio e i Giulio e le Giulia ad Egitto, fanno riferimento a una prassi che purtroppo è comune, certo, e che nessuno seriamente nella comunità internazionale ha provato a fermare con un atteggiamento di condanna, di critica, nulla di questo genere. Perché purtroppo prevale la realpolitik, no? I rapporti diplomatici, i rapporti commerciali, l'importanza che ha l'Egitto come paese. Si dice che combatte il terrorismo, certo che se combatte il terrorismo, i terroristi sono Giulio Regeni o Zaki, no? Anche di Zaki si hanno notizie, Riccardo Nuri. La notizia l'unica arriva da Milano questa sera, alla giornata internazionale dei diritti umani. All'unanimità il Consiglio Comunale ha conferito la cittadinanza a Patrick. E questo conferma che quella di Patrick è una storia anche italiana, ed è un dolore che si ha da 10 mesi e mezzo ormai in carcere in Egitto, e ci passerà la fine dell'anno, inizierà anche il prossimo, il Natale copto del 7 gennaio lo vedrà anziché celebrare con la sua famiglia, lo vedrà in carcere. Dobbiamo pretendere giustizia per Giulio Regeni, speriamo davvero che sia un processo giusto e che ci siano delle condanne con colpevoli veri e che si abbiano presto notizie buone di Zaki, lo studente dell'Università di Bologna, ormai da circa 10 mesi in carcere in Egitto. Grazie e buon lavoro e buona tenacia, Riccardo Nuri di Amnesty International. Grazie. Italia. Grazie, grazie, grazie mille. Torno a Ratta con la Folgore alle 22:00.